4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buonasera, ancora una volta bentornati amici dei motori. Questo è il programma che Radio 24 in compagnia con Quattro Ruote realizza ogni sabato alle ore 21 fino alle 21.45 circa, ricco di contenuti riguardanti i motori. Due indirizzi subito e partiamo: www.radio24.it. Ci saranno tutte le voci che sentirete questa sera, i contenuti, alcune foto, anche gli MP3 scaricabili. C'è anche l'archivio e vi ricordo anche la nostra rubrica intitolata Weekend su Quattro Ruote, il modo per conoscere un'auto molto da vicino usandola per 3 giorni e per circa 2000 km in giro per l'Italia. Lo realizziamo una volta al mese. Detto questo, la nostra mail è sempre quella: 4ruote@radio24.it. Questa sera parleremo di BMW X1 e partiamo subito con i saluti a Daniele Sparisci di 4 Ruote. Ciao Daniele. Ciao Roberto, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Sarà una puntata ricca, Daniele, se la vorrai seguire anche dopo il tuo intervento, perché poi parleremo di mercato dell'usato con ALD, parleremo di soccorso stradale con Europa Assistance, poi la clinica mobile del MotoGP e della Superbike del mitico dottor Costa e ancora i progetti di 3M e BMW per le strade più sicure e chiuderemo con i cantieri navali Icon come uno degli appuntamenti in vista dell'estate per andare a vedere che cosa racconta il mondo dei motori navali. Però torniamo su terra, 4 ruote per questa BMW X1. Qualcuno dirà: ma che cos'è la X1? È un'anticipazione in realtà, vero Daniele? Sì, è una vera anticipazione, perché la macchina definitiva la vedremo solo al Salone di Francoforte, ma noi di 4 ruote l'abbiamo già guidata per scoprire una delle novità più interessanti che arriverà il prossimo autunno. Si era già vista una concept lo scorso autunno al Salone di Parigi, ma questa volta è definitiva. Decisamente. Senti, in questo caso ci sono pochi giornalisti che possono guidare queste vetture, ma la vettura che tu hai usato è proprio identica a quella che uscirà a ottobre nei concessionari? La vettura è molto simile alla serie, naturalmente alcuni dettagli come gli interni devono essere ancora definiti, ma già si conosce e si vede quel che sarà questa X1, la più piccola delle SUV della BMW, una vettura per certi versi che sarà rivoluzionaria, perché la crisi ma anche le emergenze ambientali hanno spinto i costruttori, specialmente i costruttori del lusso, a diminuire le dimensioni e quindi a optare verso fuoristrada dalle misure meno generose ma sicuramente più compatibili. Questa è proprio la tendenza un pochino di tutti. Allora sentiamo la scheda che ci introduce nel mondo di BMW X1. Con questa vettura BMW anticipa la crossover che il prossimo ottobre andrà ad ampliare la gamma X, nata nel 1999 con la X5, arricchita in seguito con la X3 e più recentemente con la X6. Delle Sport Utility, o meglio delle Sports Activity, come preferisce chiamarle BMW, la futura X1 ha tutti i tratti distintivi. L'altezza da terra, gli sbalzi ridotti, l'inclinazione dell'1.8, la forma leggermente squadrata dei passaruota e i bordi neri della carrozzeria. Il pianale sul quale è stata realizzata è quello della serie 3, con sospensioni multilink, 5 bracci sul retrotreno, MacPherson davanti e chassis rivisto per combinare l'impiego off-road con la vocazione stradale. Sotto il cofano ci sono motori di ultima generazione a iniezione diretta di benzina e diesel common rail. Il listino partirà da 30.000 euro. Nome BMW X1. Carrozzeria 5 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,45 m, larghezza 2,76 m, peso 1500 kg. Motore anteriore 4 cilindri biturbo diesel, potenza 204 cavalli. Trasmissione: trazione integrale, cambio automatico sequenziale a 6 marce. Prezzo da 30.000 euro. Questa era la scheda principale con i dati più importanti della BMW X1. Vi ricordo che il prossimo ottobre sarà all'interno delle concessionarie, quindi è inutile cercarla prima. Però su internet c'è ancora molto, ci sono delle foto, ci sono delle notizie. Adesso c'è anche la nostra prova con 4 ruote. Daniele, quindi raccontaci la prova dinamica, mi piacerebbe sapere come va questa vettura innanzitutto. Sicuramente è stata una piacevole scoperta, perché è una vettura dalle dimensioni compatte, quindi 4 metri e mezzo circa, che è in grado di abbinare una dinamica di marcia molto simile a quelle di una berlina sportiva, come appunto la serie 3 da cui deriva, alle capacità però di una vera e propria SUV, quindi la parentela con l'X5 è stretta, ma è stretta fino a un certo punto, perché poi le macchine sono completamente diverse a livello di architettura, e quindi è una vettura divertente, una vettura che si lascia controllare, molto maneggevole e anche molto portata al divertimento. La trazione integrale ci ha permesso di superare anche numerosi ostacoli, l'abbiamo provata in off-road per scoprire che non è X solo nel suffisso, ma è una vera off-road in tutto e per tutto. Quindi se la cava bene anche nel fuoristrada, nello sterrato? Se la cava bene anche nel fuoristrada, anche se non nello sterrato, anche se sicuramente certo. La sua vocazione è molto più rivolta a un pubblico di chi si sente protetto da una posizione di guida un po' elevata e dalle ruote grandi. Guarda, la verità, non so cosa ne pensi tu, scusami Daniele, ma a me non dispiace affatto questo downsizing, in questo caso non solo delle cilindrate ma soprattutto delle dimensioni per quanto riguarda le SUV. Le SUV piacciono molto, hanno un posto guida elevato, la gente si sente più sicura e su questo potremo discutere a lungo, perché non è detto che un punto di vista più alto sia più sicuro, anzi però sono auto molto ben costruite, e a questo proposito vorrei la tua opinione, perché sempre di più sembra che la tendenza sia quella di ridurre, soprattutto per tutte le auto che dalla città si muovono fuori, non certo per le limousine o le ammiraglie. Sai Roberto, più centimetri vuol dire anche più chili, spesso e volentieri. Certo. Più chili significa motori più potenti e quindi più emissioni. Se un tempo si faceva sfoggio di grandi SUV, vedi anche il caso Hummer per esempio, che è stato venduto ai cinesi, un tempo era un po' il fuori dell'occhiello. Certo, qui parliamo di vetture molto diverse, però è chiaro che tutti si stanno muovendo in quella direzione, che la X1 sarà la prima di una serie di vetture che andranno a occupare questo nuovo segmento, quello delle SUV compatte, poi arriverà l'Audi Q3 e in futuro anche una Mercedes con caratteristiche simili. Decisamente. Chiudiamo allora questa prova anticipazione della BMW X1 con due pregi più importanti e due difetti della BMW X1. Allora, per quanto riguarda il pregio, sicuramente la sua dinamica di marcia, la sua agilità. Per quanto riguarda i difetti, vanno ricercati un po' nel peso, 1500 kg non sono pochi per una vettura del genere, e un po' nell'allestimento degli interni, che sicuramente sarà meno di lusso di quello delle sorelle maggiori X3 e X5. Molto bene, grazie davvero a Daniele Sparisci di Quattro Ruote, che ritroveremo nelle prossime prove. Ciao Daniele, grazie. Ciao, grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori. E allora, nel weekend che segna la rinascita della Formula 1, ne parleremo poi con Carlo Cavicchi, il vice direttore di Quattro Ruote, nelle prossime settimane. Sapete che la FIA e la FOT hanno trovato l'accordo, Montezemolo ha firmato la pace con, per quanto riguarda Ferrari, a patto che Max Mosley non si ripresentasse. Ecco, questa è una delle notizie della settimana di cui parleremo approfonditamente con l'avvicinarsi del prossimo weekend. Invece vorrei rimanere sulle auto per parlare di mercato dell'usato. Lo facciamo sempre con il mercato del nuovo, con il professor Malagodi. Oggi è nostro ospite Pasquale Martorano di ALD. ALD è uno dei leader del mercato per il noleggio a lungo termine, e scopriremo perché di usato parliamo proprio con lui. Allora, dottor Martorano, intanto buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Ci fa capire lei, invece che farlo spiegare a me, perché sentiamo un noleggiatore di vetture a lungo termine, quindi flotte, aziendali, per quanto riguarda l'usato, anche se credo sia facilmente intuibile, Martorano? Ma è intuibile proprio perché le flotte che stanno arrivando sul mercato sono flotte che per la maggior parte dei volumi rappresentano una fetta importante appunto nel mercato dell'usato. Caratteristica vuole che siano flotte che hanno 36 mesi, quindi 36-48 mesi, quindi appetibili anche per prezzo, anzianità e chilometraggio, e perché soprattutto hanno avuto nel corso dello storico della vita dell'autovettura un processo di controllo e check frequente, un chilometraggio certificato, un mix diversificato, quindi è possibile trovare attraverso tutte le società, le realtà che compongono appunto il noleggio a lungo termine, quel prodotto sì. che per mix è appunto appetibile a tutti i clienti privati. Ecco, fermiamoci un attimo, perché quando parlavamo nella preparazione della nostra intervista io ho detto, ma insomma, se si tratta di un noleggiatore a breve termine io posso capirlo, faccio un grande affare con un'auto che ha 6-12 mesi. Invece poi mi sono dovuto ricredere, perché ci sono dei motivi per cui anche l'usato a lungo termine è appetibile. È vero che ha più chilometri e ha almeno 2-3 anni, però è anche vero che per esempio si è sottoposto a dei controlli costanti, vero? Sì, diciamo che ovviamente la qualità dei nostri veicoli è proprio perché hanno subito un rigoroso programma di manutenzione della casa costruttrice e sono stati condotti, diciamo, nella stragrande maggioranza da un unico utilizzatore. Quindi questo è sinonimo già di garanzia, non perché il noleggio a breve non lo sia, ma assolutamente il noleggio a lungo termine, proprio perché a lungo termine ha questa caratteristica. Sicurezza, perché il chilometraggio, come le dicevo poc'anzi, è certificato, i veicoli godono di una garanzia, oltre che da parte nostra delle aziende di noleggio a lungo termine, anche di una garanzia convenzionale a 12 o 24 mesi che copre i maggiori organi meccanici e di carrozzeria. Le dicevo il mix diversificato, ma le dicevo la convenienza, perché tutte le nostre vendite hanno ovviamente incluso nel prezzo tutti gli accessori di base ed extra e ovviamente anche i costi di passaggio di proprietà. E anche questo non è da sottovalutare, perché aumentano sempre di più sia gli optional che i costi di passaggio. Tra l'altro bisogna anche dire una cosa un pochino più meno tecnica e più diciamo sociale. Tendenzialmente la poca educazione di alcuni automobilisti li fa tendere a usare il breve termine, l'autovettura per un weekend, in maniera scorretta. Se uno tiene la propria auto 2 o 3 anni, è più probabile che la senta come la propria auto, anche se pagata dall'azienda, quindi forse a usarla male ci pensa un po' di più. Questo è sicuramente vero, e diciamo poi, ecco, che comunque la convenienza deriva poi da un fattore economico, quindi convenienza significa che aziende di noleggio a lungo termine a distanza di 3 anni, 4 anni hanno comunque ammortizzato il bene secondo dei loro criteri interni e si rivolgono al mercato retail con un prezzo molto interessante. Decisamente. Senta, è finito in un baratro il mercato dell'usato a maggio, ci dice il Ministero, meno 19,16% addirittura, e il nuovo non se la passa certo bene, siamo a meno 8,50%. Voi avete delle indicazioni su quanto avverrà nei prossimi mesi? Il mercato dell'usato riprenderà energia? Ma guardi, sì, diciamo che una prima crisi del mercato dell'usato si è registrata già lo scorso anno in alcuni paesi dell'Unione, come la Spagna, che ha avuto appunto delle cifre negative doppie. Quest'anno ha coinvolto tutta l'Unione Europea, Italia inclusa, toccando le cifre che lei appunto prima citava, con un meno 20%. Soprattutto a livello est c'è stato un grosso rallentamento. Oggi l'Italia, devo dire, da questo mese dà i primi segnali di risveglio, con un volume di vendite sul mercato interno che ha superato quello di maggio per un 10% percentuale. Quindi i primi segnali su giugno sono positivi, speriamo possano continuare anche nei prossimi mesi. Speriamo. Nel salutarla brevissimamente, Martorano, le chiedo il modo in cui un automobilista, un ascoltatore convinto di comprare o farsi fare un preventivo per un'auto usata che esce dal noleggio a lungo termine, la modalità con cui può rivolgersi ad un rivenditore, come fare e da chi? Ma guardi, ovviamente io faccio parte di L&D Automotive, quindi per ora ho la mia causa, ma comunque noi noleggiatori siamo presenti ovviamente e indicizzati sui maggiori portali internet. Abbiamo showroom per quanto ci riguarda aperti 6 giorni alla settimana su Milano e Roma. Abbiamo una rete decentrata di partner sul territorio in grado di coprire le maggiori città. Ci rivolgiamo sia in Italia che in Europa sui maggiori portali per la vendita di autovetture, sia per quanto riguarda le aste telematiche che sui portali web. Possono trovarci tranquillamente negli showroom di Roma e Milano, ma la cosa che consiglio è consultare oggi i nostri portali per avere una gamma di servizi, non soltanto per quanto concerne la vendita dell'usato, ma anche per tutti i servizi del noleggio sul nostro portale e sui portali maggiori delle altre realtà del noleggio a lungo termine. Va bene, www.aldautomotive.it, poi sentiremo anche gli altri operatori naturalmente del settore. Grazie per ora a Pasquale Martorano e a prestissimo. Buona serata. Allora, rimaniamo su quattro ruote perché arriva l'estate e insomma bisogna stare attenti anche a quei piccoli ma dolorosi imprevisti e spesso poco generosi con il nostro portafoglio che ci capitano quando usiamo l'autovettura per un periodo maggiore rispetto al solito, per un chilometraggio superiore, soprattutto nel caso la nostra autovettura non sia mantenuta in una forma perfetta. E allora può convenire, dicono gli operatori, stipulare una polizza assicurativa, per esempio per il soccorso stradale. Due fondamentalmente sono gli operatori in Italia che si spartiscono al mercato: Europa Assistance e ACI. Iniziamo questa settimana da Europa Assistance, ci fa compagnia il direttore dell'area automotive e grandi broker del gruppo, Daniele De Negri. Benvenuto. Buonasera. Senta, dottor De Negri, ci racconta, o meglio racconta ai nostri ascoltatori, che cosa propone Europa Assistance proprio a livello di prodotti e di risoluzione di quei problemi di cui parlavo prima in vacanza. Europa Assistance è una società conosciuta in particolare dalle persone che vanno in vacanza, infatti noi ci occupiamo di risolvere problemi di tipo tecnico e di tipo sanitario per le persone che viaggiano. E visto che qui siamo nell'ambito automotive, raccontiamo che cosa facciamo. Abbiamo ovviamente una rete di carri attrezzi che sono quelli che intervengono per recuperare l'auto e portarla dal luogo dove mi è capitato al sinistro a un'officina dove viene riparata, e siamo stati i primi in Italia a lanciare una rete di officine mobili. L'officina mobile che cos'è? È un mezzo che arriva sul posto e ha dei sistemi di diagnosi che vanno ad agire sul sistema elettrico della vettura, e conformi con tutte le normative della casa automobilistica costruttrice e di tipo tecnico, per cui noi oggi siamo in grado di risolvere il 50% dei problemi di un automobilista sul posto. Questo dicono le statistiche, quindi una volta su due è riuscita a risolvere il problema direttamente nel punto in cui l'auto si è fermata probabilmente. Questo è ovviamente per i vostri clienti, quindi per coloro che hanno sottoscritto una polizza. Esatto, questo per i nostri clienti, e lo facciamo anche per clienti dei nostri clienti. Ovviamente noi lavoriamo poi dietro a la maggior parte delle case costruttrici che operano in Italia. Certo. I servizi di assistenza ci siamo noi. È chiaro, tra l'altro credo siate solo voi e ACI autorizzati ad entrare in autostrada, per esempio su quasi tutte le autostrade, mi pare, in Italia, vero? Esatto, in Italia c'è stato un monopolio fino al 93, poi noi abbiamo fatto ricorso e anche noi siamo stati autorizzati a entrare in autostrada. Va bene, senta De Negri, mi dai i prezzi per gli ascoltatori? Quanto può valere una polizza di questo genere? Immagino su base annuale, o si può anche fare semestrale o trimestrale? E generalmente le nostre polizze vengono vendute su base annuale, e poi anche per le esigenze dei clienti che viaggiano per 7, 15 giorni o mese si possono fare. Le polizze vanno dai circa 50 ai 120 euro, dipende. Giusto per capire il range di prezzo. Cosa succede a quegli altri 50 su 100 automobilisti che non risolvono il loro problema sul posto con l'officina mobile? Allora, il cliente a cui non viene riparata la vettura deve essere trasportato presso l'officina di destinazione, che generalmente è la casa, il concessionario della casa costruttrice, o un'officina generica. Noi tendiamo a portare tutti i clienti presso i costruttori. Dopodiché da lì si prevede che gli venga data una vettura in sostituzione. Quindi il cliente parte con la sua vettura in sostituzione fino a che non gli viene restituita la sua macchina. Quello che noi abbiamo fatto come innovazione, perché poi Europa Assistance è una società che è sempre stata riconosciuta come leader nell'innovazione e nella diversificazione, è un servizio che si chiama Stop and Go. L'abbiamo lanciato in Italia lo scorso novembre, quindi nel novembre 2008, ed è il servizio per cui noi siamo in grado di portare la vettura sul posto del fermo al nostro cliente. Questo è un servizio che è diciamo unico in Europa, perché anche in mercati più evoluti come il mercato tedesco, il mercato inglese, non esiste una rete capillare come la nostra con un servizio di autonoleggio aperto 24 ore su 24. Sì, perché le problematiche quali sono? Mi si ferma l'auto alle 2 di notte a Novi Ligure in autostrada, vi chiamo, il problema non si risolve, voi mi portate una vettura più o meno come la mia direttamente sul luogo. Io cosa faccio? Trasbordo le valigie e vi lascio la mia auto? Esatto, questo è l'assistenza dove il cliente chiaramente ha un indice di soddisfazione massima, no? Perché beh, certo, uno viaggio alle 2 di notte. In Italia purtroppo la rete degli autonoleggi prevede che un autotreno aperto 24 ore su 24 si trovi probabilmente a Milano, negli aeroporti, sì. A Roma non ci sono altri noleggi aperti 24 ore. Noi abbiamo una rete di 200 nostri centri dove c'è sia il carro attrezzi che l'autonoleggio. Noi abbiamo una flotta circa 1800 autovetture, quindi noi per il cliente che si ferma a quell'ora partiamo con la vettura sul carro attrezzi, gli portiamo la vettura sostitutiva, il cliente trasborda la famiglia, i bambini, le valigie, prosegue il viaggio, noi ci occupiamo della sua macchina, quindi la portiamo presso la casa costruttrice, la facciamo riparare e quando la macchina è pronta il cliente la va a ritirare e lascia giù la macchina che noi gli abbiamo consegnato. Molto bene, immagino che questo sia anche più costoso come servizio per il cliente. Diciamo di sì, ha un costo superiore. Va bene, non si sbilancia. È già attivo o deve ancora partire questo servizio? È un servizio che è già attivo. Molto bene. Quale sito possiamo dare ai nostri ascoltatori per maggiori informazioni? europaassistance.it, ci sono tutte le informazioni per i viaggiatori, sia per il mondo auto che sanitario, quindi lì si trovano tutte le informazioni necessarie. Molto bene. Per fare una polizza con noi, sia al telefono che online. Ci ha fatto compagnia nella prima puntata sull'assistenza stradale Europa Assistance, toccherà darci la prossima settimana nella persona di Daniele De Negri di Europa Assistance, direttore area automotive e grandi broker del gruppo. Allora, caro De Negri, grazie, a prestissimo e buona serata. Grazie, buone vacanze. Grazie, sono ancora un po' lontane, ma molti che ci stanno ascoltando sicuramente stanno già partendo, beati loro e anzi in controtendenza. Claudio Galbiati, buonasera. Buonasera. Claudio Galbiati non si occupa di vacanze, ma si occupa di sicurezza. Lo fa con 3M, è responsabile del servizio tecnico di 3M prodotti per la sicurezza e con BMW vi siete inventati Strade più sicure, un'iniziativa dedicata principalmente ai motociclisti. Più volte da questi microfoni Galbiati abbiamo detto quanto rischino i motociclisti nelle loro cadute già di per sé traumatiche, per di più nell'incontrare pali della luce, del semaforo, spigoli di marciapiedi o segnaletica malmessa. Com'è la situazione in Italia? Sia spietato. La situazione in Italia per il motociclista è drammatica, è una giungla di ostacoli continui. Le immagini che molto spesso si pensa al motociclista come colui che corre o imprudente, molto spesso gli incidenti sono invece dovuti a o imperfezioni del manto stradale o ad ostacoli o dal comportamento a volte purtroppo anche scorretto degli altri utenti della strada. Certamente, senza poi togliere evidentemente gli errori e le colpe anche dei motociclisti, certo. Specie quelli maleducati che rovinano la beata e meravigliosa categoria dei due ruotisti, invece quelli educati. Senta Galbiati, che cosa concretamente riuscite a fare per migliorare questa situazione di pericolo? Allora, il progetto ha preso in considerazione quelle che sono le situazioni più a rischio per il motociclista e gli studenti del Politecnico, della Facoltà di Design del Politecnico, hanno cercato di dare a questi problemi delle soluzioni concrete. Per farle un esempio su tutti, la buca sulla strada rappresenta un ostacolo per il motociclista a volte insormontabile, scusi il gioco di parole, ma è così. In questo caso gli studenti si sono inventati una sorta di asfalto che parla al motociclista. Quando c'è la buca lo vedo immediatamente perché la buca diventa gialla. E questo è solo uno degli esempi. Certamente, è importante perché questo potrebbe già salvare decine e decine di vite umane. Quattro ruote e dintorni. Siamo in collegamento con Claudio Galbiati di 3M che con BMW si è studiato insomma un progetto importante, si chiama Strade più sicure, rivolte all'attenzione dei motociclisti. Quando cade un motociclista bisognerebbe che non ci fosse nulla di mezzo e anzi ci fosse il meno possibile sulla strada, pali della luce, dei semafori, spigoli di marciapiedi, tombini, incavi che insomma rendono la caduta ancora più traumatica di quanto già non sia. Un altro esempio di come possano nascere soluzioni concrete, Galbiati. Sì. Un altro esempio concreto è l'iCiuffo, una sorta di palo flessibile che permette di non far parcheggiare le macchine sul marciapiede, ma al contempo se il motociclista va contro questa sorta di palo flessibile, non ha i danni che ha con i normali paletti che vedete sulle strade tutti i giorni, che sono fatti di ferro o peggio di cemento. Decisamente pericolosi, è chiaro, se no? Un altro esempio invece è quello che gli studenti hanno chiamato sesto senso. È un sistema molto semplice che permette di vedere negli incroci ciechi, con un sistema molto, se vogliamo, banale e ingegnoso. C'è una sorta di sensore che quando la macchina dalla parte non visibile sta transitando, facendo una sorta di segnale luminoso che il motociclista che sta approcciando l'incrocio percepisce e può quindi avere il tempo di fermarsi e valutare anche la sua velocità per fare in modo che non ci siano danni, insomma. Decisamente importante. Quanto andrà avanti questo progetto e chi vede coinvolti esattamente? Allora, questo progetto nasce da volontà di BMW Motorrad, che ha avuto il merito di pensare al problema legato all'infrastruttura stradale per il motociclista. Quindi grazie a BMW il progetto andrà avanti fino a una fase di realizzazione. Questi tre progetti che vi ho raccontato verranno realizzati su un'area test nel comune di Ro, che ha messo a disposizione il territorio, quindi vedremo nel concreto se funzionano, come funzionano e che tipo di riscontro danno anche nei motociclisti. Beh, è molto importante questo, vi auguro anche di riuscire a coinvolgere i loro giornali, le loro riviste, i loro forum, perché sono persone molto attive da questo punto di vista. Grazie davvero a Claudio Galbiati, responsabile del servizio tecnico 3M Prodotti per la Sicurezza. A presto e buona serata. Grazie. Galbiati. Grazie, buonasera. Cambiamo adesso argomento, togliamo due ruote, ritorniamo sulle moto e rimaniamo invece nell'ambito dei motori. La clinica mobile ha un'anima, si chiama Dottor Costa, è il suo fondatore ed è un'istituzione, una struttura che segue i mondiali MotoGP e Superbike e cura molto di più che un ospedale o una clinica i piloti considerati dei veri e propri eroi dal Dottor Costa. Abbiamo il telefono da Assen, dove proprio in questo weekend si sta svolgendo il Gran Premio di MotoGP, Claudio Marcello Costa, il fondatore della clinica mobile. Buonasera dottore. Buonasera a lei e a tutti. Io credo sia utile per i nostri ascoltatori sentir parlare della clinica mobile invece che del MotoGP. Questa volta lo faccio con lei. La clinica mobile è molto conosciuta, pochi sanno insomma la sua storia, un po' più lontana e un po' più recente. Se vuole la vuole sintetizzare lei? Ma la clinica mobile è un mio sogno, nasce da un atto d'amore nei confronti dei piloti di moto che mio padre mi ha insegnato ad amare quando ero piccolo. Quando ha fatto l'autodromo di Imola, dove ci ha fatto le corse più belle della storia del motociclismo, sì. È diventato medico, ho voluto creare questo piccolo ospedale perché a quei tempi, nel 77, quando ho esordito, non è che ci fosse un'assistenza sanitaria adeguata alle corse di moto, in particolare alle possibilità di traumi anche gravi. E il mio sogno era portare questo piccolo ospedale e poi che diventasse la casa dei piloti, come è diventata, però quello che non ho sognato, sono riuscito a sognare con la mia fantasia, è che la clinica è diventata un altare dove il pilota celebra un rito, direi quasi magico, di risorgere dalle ferite, dalle fratture, dalle malattie, per continuare ad inseguire il suo sogno, che è la cosa più preziosa della vita. Senta, dottore, leggendo le biografie dei piloti, leggendo molti articoli o la storia della sua clinica, si intuisce che davvero c'è qualche cosa di magico nel rapporto fra il pilota e la sua struttura. Lei viene spesso citato da loro, le credono tantissimo. Quanto è importante il suo ruolo quando fa una diagnosi, dopo una caduta, dopo un trauma? Diciamo che il mio ruolo è quello mitologico, cioè di avere l'esperienza e il sapere di 40 anni di attività nel mondo del motociclismo e del motomondiale. Poi c'è una grande, diciamo, verità nella clinica, che noi curiamo con le risorse, le ricchezze, il portento che è dentro ogni essere umano, cioè quelle facoltà che ha l'essere umano di poter reagire e risorgere dalle ferite, dalle fratture, malattie, come ho detto prima. Quindi è molto importante allearsi con queste ricchezze che sono dentro al cuore di tutti gli esseri umani, per poi dopo aggiungere quelle che possono essere le altre terapie, le altre medicine e le altre tecniche, diciamo così, scientifiche del caso. Che lei certo non dimentica, per esempio l'ultima, una delle ultime è la ilterapia, una metodica di cura del dolore proprio osseo-tendineo muscolare, che è uno dei punti più fragili dei piloti che cascano sull'asfalto a 200 km orari. Ci spiega che cos'è la ilterapia? La ilterapia è un laser, è un raggio benefico che ha un'azione, come ha detto lei, benefica sulla patologia muscolo-tendinea. Diciamo così, aiuta il pilota a riparare le ferite e diciamo così a diminuire quello che è il dolore. È chiaro che noi quando curiamo un pilota non usiamo solo un metodo, perché il pilota gli vogliamo talmente bene che quando si ferisce o ha bisogno di noi lo aiutiamo con tutto quello che è, diciamo, con tutte quelle che sono le nostre possibilità e quindi con tutte le nostre, diciamo, con tutto il nostro aiuto e con tutto il nostro amore. La ilterapia sicuramente è un apparecchio importante, fondamentale, perché ci aiuta di accelerare quelli che sono i processi di guarigione e molte volte ci può dare qualche risultato davvero importante. Oggi qui a Assens è stata una cosa bella, perché il libro che ho scritto, che è Grand Prix College, che è in italiano, è stato tradotto anche in inglese e spagnolo, e c'è stato un grande successo, perché questo libro è un libro che tratta sì di quelle che sono, diciamo, le storie di motociclismo che stupiscono, esaltano, commuovono, parla sì del coraggio con la sua componente più bella e fragile umana, che è la paura. Ma è un libro però per i ragazzi, per i giovani e anche per i genitori. È un libro che abbiamo dato anche questa possibilità, che consultando il sito della clinica mobile www.clinicamobile.com noi lo possiamo mandare senza nessuna spesa di spedizione a casa in qualsiasi parte d'Italia ed Europa. Molto bene, grazie davvero al dottor Costa, il fondatore della clinica mobile. A presto, buona serata, grazie. Buonasera. Adesso chiudiamo la nostra trasmissione in bellezza, ci spostiamo dalle 2-4 ruote al mare. Arriva l'estate, sapete che durante il periodo estivo ci occupiamo di motori, sempre motori il nostro programma, ma di motori nautici in questo caso. E allora vorrei presentarvi il presidente dei cantieri navali Icon, l'architetto Lino Siclari. Buonasera, architetto. Buonasera. Volevo questa sera fare un ragionamento con lei insieme ai nostri ascoltatori, che solitamente sentono parlare di motori, di auto e moto, e poco o raramente di nautica. In realtà la nautica è fatta di motori, voi costruite grandi yacht. Intanto una domanda secca: come avete affrontato, come state affrontando uno dei momenti più bui, più neri della nautica, voi di Icon? Bene, e sicuramente noi che produciamo giocattoli per ricchi in questo momento non abbiamo dei grandi vantaggi, perché i ricchi continuano ad esserci, però il loro stile di vita, le loro abitudini stanno cambiando, e in questo momento, visto che non amano ostentare, preferiscono rinunciare all'acquisto della barca. Noi stiamo reagendo con una politica più vicina alla cura del cliente, a chi veramente ama il mare e probabilmente non rinuncia alla sostituzione della barca o all'acquisto di una nuova barca. Beh, certo, questo provoca minor business per voi, un giro inferiore. Allora che cosa fa un cantiere nautico in questa fase? Progetta, innova, aspetta che passi la bufera? Che cosa state facendo? Assolutamente, bisogna approfittare di questo momento in cui il lavoro si è sicuramente dimezzato, perché di questo si parla ormai in tutta la cantieristica, e noi ne approfittiamo per innovare, stiamo investendo in innovazione tecnologica sui nuovi prodotti. Assolutamente il mondo della nautica deve cambiare e un po' si deve avvicinare a quelle che sono le tematiche importanti dell'ecosostenibilità, di creare prodotti che sicuramente a livello energetico offrano nuove opportunità nel futuro. E poi dobbiamo investire nei nuovi canali di vendita, stiamo gestendo un rapporto con il cliente finale più da vicino, stiamo lavorando a fianco del dealer, del nostro concessionario, che a differenza del passato non potrà più acquistare a stock tante imbarcazioni. E quindi noi dobbiamo cambiare anche la politica commerciale. Sono momenti in cui bisogna necessariamente sostenere il cliente finale e la rete commerciale. Decisamente. Come lei sa, nelle auto il servizio di personalizzazione è portato all'ennesima potenza, si cerca di coccolare soprattutto da un certo target in su il cliente, l'automobilista, gli si costruisce quasi l'abitacolo cucito addosso, si può scegliere la pelle, la cucitura, si può scegliere le dotazioni interne, gli optional e tante varianti. La stessa cosa avviene nella nautica? Assolutamente, nella nautica è quasi esasperato questo. Il cliente oggi ama avere gli interni della barca curati nei dettagli con le scelte delle lampade, dei tessuti, dei servizi a bordo. Quindi questa è un'attività che oggi a maggior ragione noi stiamo svolgendo più a contatto con il cliente finale. Decisamente. Per quanto riguarda l'usato, le faccio un piccolo ragionamento che abbiamo fatto in questa puntata. L'usato dei motori è caduto vertiginosamente nel mese di maggio. Oggi noi diciamo che si possono fare grandi affari ad avere i soldi, aggiungiamo, perché si possono comprare delle belle auto con pochi chilometri, veramente facendo un affare. La stessa cosa le chiedo, avviene nella nautica oppure no? Com'è il mercato dell'usato? Beh, il mercato dell'usato sta soffrendo. Il mercato del nuovo, i prezzi si sono notevolmente ridotti, ma non tutti i cantieri aderiscono a una scontistica maggiore e più importante. Noi per esempio stiamo prediligendo una politica più di attesa e preferiamo assistere il nostro cliente anche sull'usato a marchio Icon, e abbiamo proprio messo a punto un progetto denominato Icon Next, che vuole proprio valorizzare il nostro usato in un momento di grande sofferenza del mercato, per offrire a un cliente finale un usato che ha le stesse garanzie del nuovo e in più riesce ad avere un prezzo che è di gran lunga diverso dal nuovo. Decisamente. Chiudiamo con l'ambiente di cui aveva fatto accenno da poco. Le chiedo se anche Icon, come alcuni grandi gruppi, sta progettando motori in linea con l'ambiente, ibridi, elettrici oppure no. Assolutamente. Noi stiamo lavorando su questo già da un anno e mezzo. Onestamente il mercato vuole questo tipo di prodotti, non è solo un fatto di moda. Noi presenteremo il prossimo anno il primo progetto di una barca ibrida da 70 piedi, partiamo con un 70 piedi che riteniamo la misura idonea per presentarsi sul mercato con un prodotto innovativo che, mi lascerei dire, non è ibrido. Noi stiamo veramente puntando su un prodotto che è veramente no fuel. E quindi stiamo cercando, in maniera forse un po' più aggressiva, di fare una vera importante novità sul mercato. Di fare quasi un salto. Vorremmo anche sugli ibridi, su barche più piccole. Certo, certo, quasi fosse un salto proprio generazionale. Grazie davvero al presidente Lino Siclari di Icon. A presto e buona serata, presidente. Grazie a tutti, buona serata a tutti, grazie. E la buona serata in realtà la giro a voi che ci avete seguito anche questo sabato. Ci sentiamo puntualissimi sabato prossimo alle ore 21, Radio 24, insieme agli amici di Quattro Ruote, tutti insieme per parlare di motori nella maniera più elegante possibile, più educata possibile, ma anche con tanta tanta passione. Da Giacomo in regia insieme a Michele, da Roberto Rasia al microfono, a presto, buona serata e soprattutto buona guida.